La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:07 primi e 15 secondi qui in diretta dagli studi di Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, come sempre, in questo lunedì 25 settembre, Oscar Giannino. E parliamo oggi, fino alle 4, delle elezioni tedesche. E in particolare la domanda che vi faccio, se volete intervenire, 800 24 00 24, opinione lo sapete con gli sms 349 238 6666, oltre ovviamente a qualunque considerazione vogliate esporci rispetto a quello che avete capito si è verificato in Germania, provando ancora una volta che l'informazione è pigra. Questo è il testo del commento che ho scritto oggi sul Messaggero sul Mattino. Vedremo perché lo penso, ma diteci come la pensate voi. Ma la domanda esplicita che mi interesserebbe, tra l'altro, sottoporvi è questa. Poiché, come vedremo e avete capito di sicuro, il tratto fondamentale della sorpresa delle elezioni tedesche sono i milioni di voti persi da CDU-CSU della Merkel e dal Partito Socialdemocratico a vantaggio del partito nazionalista xenofobo Alternative for Deutschland, e questa è una frattura storica nella Repubblica Federale Tedesca post Seconda Guerra Mondiale, perché i 97 seggi che al Bundestag ha guadagnato sul totale, i 94, perdonate, seggi che ha guadagnato sul totale dei 709 seggi del Bundestag. Il Bundestag ha, come abbiamo già spiegato, un numero variabile di seggi perché bisogna conciliare le prime preferenze espresse sul collegio uninominale con il secondo voto che può essere disgiunto alla lista dei partiti. Però i 94 seggi su 709 del Bundestag conquistati dal Tentrum für Deutschland rappresentano per la prima volta la presenza in forze di un partito alla destra della CDU-CSU e una, tra virgolette, signora destra, perché contesta radicalmente l'immigrazione, ha un giudizio radicale sull'Islam incompatibile con la Germania, chiede nel suo programma che la Germania esca dall'euro e torni al marco, nessuna cooperazione con i paesi, chiamiamolo così, eurodeboli. E io vi chiedo, di fronte a questo, che influenzerà, vedremo come, vedremo l'opinione dei nostri ospiti oggi, l'intera politica tedesca, perché al quarto mandato la Merkel deve formare un governo difficile con i liberali, che sono anche loro ormai euroscettici, e i verdi, vedremo se ce la farà. Voi come pensate, dal nostro punto di vista italiano, che sia giusto regolarsi con questa novità? Alcuni di voi, ne sono sicuro perché lo so già, l'ho sentito già stamattina, pensano che al nazionalismo più forte si risponde con nazionalismo più forte, quindi anche noi è giusto che premiamo chi pensa innanzitutto l'Italia come America First di Trump, Germania Oberales per Alternative für Deutschland, e anche in Italia ci sono fior di partiti che, i cui leader la pensano così. Altri magari pensano che nella storia del Novecento lo scontro tra nazionalismi dell'Europa conosciamo a che cosa ci ha portato. È ovvio che la storia non si ripete, io non sto dicendo che Alice Weidel, che è alla guida e alla co-guida di Alternative für Deutschland, sia Himmler, per carità di Dio, però insomma mi interessa molto capire qual è la vostra reazione a questo assestamento. Io vi aggiungo come notizia, perché è uscita dopo, è uscita qualche minuto fa, mero titolo informativo, quando quindi era finita il giornale radio e ben dopo che fosse finita tutti i convocati, che è uscita intanto anche la sentenza per chi è interessato al calcio, ma questa è una notizia che ha impatto nazionale anche al di fuori del calcio, perché è uscita la sentenza del Tribunale Nazionale della Federcalcio relativa al presidente della Juventus Andrea Agnelli. Vi ricordate che la procura aveva chiesto 30 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, e la sentenza è che comunque Andrea Agnelli è inibito per 12 mesi, e al club bianconero è comminata un'ammenda di 300.000 euro. Stiamo parlando del caso biglietti ultra. Lo volevo solo dire perché so che interessa a molti, ma non parliamo di questo oggi. Allora, in sintesi estrema, i risultati credo che li conosciate. Il partito della Merkel è andato significativamente peggio dei sondaggi. La grande coalizione, cioè CDU-CSU e SPD, ha lasciato sul campo 65 seggi al Bundestag, di cui 40 persi dai socialdemocratici, che sono al minimo storico del loro risultato, e 25 persi dal CDU-CSU. È molto significativo il fatto che Trentur Fu Deutschland non guadagni solo tantissimi seggi nella parte della Germania di cui reddito medio pro capite è più basso, cioè quello in cui si concentrano gli esclusi dal grande dividendo della crescita tedesca, che continua ininterrottamente dal 2009, e quindi non ha solo preso una barca di voti all'est, dove già Die Linke, la formazione a sinistra dei socialdemocratici, storicamente era molto forte, e Alternative für Deutschland in Sassonia appunto ha preso oltre il 25% dei voti. In Sassonia la somma precedente dei socialdemocratici e di Die Linke era oltre il 35%, nel 2013 è scesa al 27%. Ma il problema è che Alternative für Deutschland prende punteggi a doppia cifra anche nelle altre parti della Germania. In Baviera particolarmente significativo il fatto che in Baviera passa dal 4 al 12%, la CSU perde il 10% in Baviera. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel voto Alternative für Deutschland non ci sono solo i delusi perché non partecipano al dividendo, ma c'è anche una parte significativa ormai di borghesia piccola, media e medio-alta che si riconosce nel programma deliberatamente nazionalista e xenofobo di Alternative für Deutschland. E questa è una linea di frattura nella storia tedesca. Cosa significherà per la Merkel comporre un governo con i liberali di Christian Lindner, che è un euroscettico oramai dichiarato, ha già dichiarato questa mattina per esempio che occorre predisporre un meccanismo per l'uscita dall'euro di paesi come l'Italia senza che questo significhi uscire dall'Unione Europea. Sicuramente una cosa simile piacerà ai partiti italiani che vogliono uscire dall'euro. Ha chiesto che si redigano subito, sempre il capo del Partito Liberale, delle norme in materia di default dei paesi dell'euroarea per non dover fare trattative di anni e anni, caso per caso, come è avvenuto alle nostre spalle nel caso greco. Il Partito Liberale chiede una sterzata molto vigorosa rispetto alle politiche che vengono a oggi, alle domande del voto, rimproverate nel partito della Merkel, alla Merkel stessa, perché troppo spostate verso la sinistra, l'innalzamento dell'età pensionabile, l'abbassamento dell'età pensionabile, la stasi sulle liberalizzazioni interne dei servizi. Il programma liberista ed euroscettico dei liberali è molto netto, e come questo si possa comporre, hanno preso 80 seggi al Bundestag liberale, erano scomparsi, erano andati sotto il 5% sia pur di poco nel 2013, come questo si possa comporre con la leadership dei Verdi e una donna combattiva, lo vedremo. La Merkel è capace di tutto, ma una cosa è sicura: la sottovalutazione della frattura storica, che pure era preannunciata e mi sembrava da tempo la vera novità di queste elezioni, e i media l'hanno completamente toppata ancora una volta, perché vi hanno descritto per mesi e settimane una specie di noiosa conferma della Merkel, la cui personalità concava e convessa tutto risolve in una rassicurante leadership personale. Ma il punto vero è: torniamo per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale al pangermanesimo? Cosa può significare per l'Europa? Prima tutti dicevano: ma Macron e Merkel, dopo la conferma della Merkel, si metteranno sicuramente a una comoda agenda condivisa, mettendo insieme le due proposte, il superministro che chiede Macron con un abbozzo di più ampio bilancio europeo da una parte, e dall'altra la trasformazione dell'SM, il fondo salva stati, in una specie di fondo monetario europeo come ha chiesto Schäuble. Come fa la Merkel, che ha subito dichiarato dobbiamo recuperare il milione di voti persi verso la destra nazionalista, a essere così, tra virgolette, cooperativa? Ecco, queste sono solo alcune delle domande di fondo. Io sono molto preoccupato per la rinascita del pangermanesimo, perché la memoria storica dovrebbe insegnarci che la seduzione che la cultura, il filone che è economico e culturale e filosofico e di dottrina dello Stato del pangermanesimo, tra 800 e 900 ha prodotto ciò che ha prodotto. La storia non si ripete, ma è qualcosa di molto diverso da il voto di malessere che in altri grandi paesi europei si esprime verso partiti contrari all'immigrazione e più autarchico nazionalisti, perché lì c'è una radice peculiare, culturale e filosofica, di cui abbiamo purtroppo pagato un prezzo immane. L'errore di tutti è stato non capire che forme analoghe, ma non innestate nel pangermanesimo, in questi anni sono diventate la scelta di fondo di un numero crescente di paesi est europei, i paesi del blocco di Visegrad, Polonia, Ungheria, Cechia, Slovacchia, e abbiamo clamorosamente sottovalutato tutti questi fenomeni. Premessa finita, e iniziamo con i nostri ospiti, il primo dei quali è un grande germanista italiano, traduttore di autori tra i maggiori nel campo del romanzo e della filosofia tedesca, e che oggi è direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino. Luigi Reitani, grazie di essersi reso disponibile. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, io ovviamente, sapendo bene che lei riveste un incarico di questo tipo, non le chiedo opinioni politiche. Però io sono molto interessato, visto che lei ha lavorato su autori che almeno per me, per molti, sono sacri, Schnitzler e così via, dal punto di vista culturale. Il dubbio che siamo a una ricomparsa del pangermanesimo è fondato, per lei che sa benissimo di che cosa stiamo parlando, oppure no? Ma sinceramente no, io anzi escluderei totalmente questo rischio, in primo luogo perché i 2/3 degli elettori che hanno scelto la AfD ha dichiarato, stando ai sondaggi, di averla votata non perché si riconosce nel suo programma, che d'altra parte è anche abbastanza difficile da definire, perché nessuno sa in questo momento che cosa sia la AfD. È vero che contiene moltissimi elementi nazionalisti, populisti in particolar modo, non diversi da quelli che sono presenti in tanti altri movimenti europei e con più successo, e voglio ricordare che stiamo parlando di un schieramento che ha ottenuto, stando a quelli che sono gli ultimi risultati elettorali, il 12,6%, e che quindi è una assoluta minoranza in Germania, ma anche nel contesto europeo. Si tratta di un movimento non paragonabile a quello della Le Pen in Francia, per non parlare dell'Austria, del nazionalismo che è davvero molto più pericoloso, o dell'Olanda, o anche, se vogliamo, a quello che accade anche da noi. Insomma, comunque i 2/3 dell'elettorato ha detto di non votarla perché si riconosce nel suo programma, ma per protesta. Ed è questo il punto essenziale, e l'AfD ha raggiunto questo risultato perché ha pescato da un lato in un elettorato che alle ultime elezioni si era astenuto. Secondo le ricerche, più di 1 milione di voti è arrivato da chi non votava alcun partito, cioè da una schiera che avrebbe scelto il non voto. Siamo di fronte infatti a un aumento in percentuale della presenza dell'elettorato tedesco, che è di gran lunga uno dei più alti e più fedeli in Europa, cioè siamo arrivati quasi all'80% degli elettori votanti, e questo a mio avviso è un buon sintomo, sì, certo, per la tenuta della democrazia tedesca, e quindi si tratta comunque di un fortissimo campanello d'allarme. Io non sottovaluto, e nessuno sottovaluta in Germania, questo è stato preso con molta serietà, le dichiarazioni inaccettabili di molti esponenti dell'AfD sono sicuramente qualcosa che non deve essere taciuto, sottovalutato, e soprattutto perché la storia tedesca è quella che è. Però vorrei appunto mettere ben in rilievo, primo, che si tratta sicuramente di un voto di protesta molto acuto, che ha le sue ragioni, e sono soprattutto da ricercare nel fatto che è mancata una naturale alternanza in una situazione democratica che ha sempre avuto un'alternanza fra i due partiti popolari maggiori, che tuttora raccolgono il 50% dei voti dell'elettorato. E mi chiedo quanti partiti in Europa popolari, ancora molto radicati, perché i partiti non sono scomparsi in Germania, a differenza di quanto è accaduto in altri paesi, quanti partiti possono contare su consensi come il 33%? Ah, sì. Macron non ce l'ha, no, certo. E ho il 20,5%, cioè partiti che abbiano questa forza in altri paesi europei sono sicuramente partiti felici di avere un quinto o un terzo dell'elettorato. Allora, però c'è sicuramente un voto di sfiducia verso la grande coalizione, cioè gli elettori hanno fatto capire così non va. Vogliamo una normale dialettica, vogliamo che i partiti ideologicamente diversi per radici abbiano idee che si confrontino tra loro, ma proposte di governo diverse, e hanno scelto un partito molto confuso, oggi il fatto che una delle due presidenti del partito, la signora Petri, abbia detto che non vuole aderire al gruppo parlamentare presente in Parlamento, la dice lunga sulle divisioni interne anche di AfD. Dunque esiste un voto di sfiducia verso la grande coalizione, esiste un voto di protesta, esiste un voto di protesta soprattutto a est, perché secondo me dal punto di vista culturale la cosa più drammatica, se vogliamo, ma anche più interessante è il fatto che a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino la Germania sia ancora divisa culturalmente, divisa socialmente, perché il voto a est e il voto a ovest esprime due paesi diversi. Non c'è dubbio. Frauke Petri, che fino a qualche mese fa era la via via sempre più contestata leader di Alternative für Deutschland, che poi si è dimessa, ha annunciato appunto che non parteciperà al gruppo, dichiarando, vista la debolezza dei democristiani e dei socialdemocratici, dovevamo e potevamo prendere il 20%. Se questo non è avvenuto è perché la leadership e la campagna elettorale di AfD ha impaurito i tedeschi. Quindi la resa dei conti, per così dire, l'appello agli eletti e ai membri del partito che fa Frauke Petri andando in un altro gruppo, un gruppo misto, è quello di dire: siete stati troppo duri e violenti nei toni, la Germania ha bisogno di una maggiore moderazione per prendere più voti in uscita dai democristiani e dai socialdemocratici. Intanto grazie a Luigi Reitani, ci ha raggiunto e lo ringrazio molto, Gianrico Rusconi, saggista, politologo, germanista, una delle voci, insomma tutte le persone se le sono abituate a considerare necessaria come opinione e approfondimento quando si tratta della Germania e della sua cultura. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Reitani all'inizio: a suo giudizio possiamo essere certi che non siamo in presenza di una rinascita, di una ricomparsa sulla scena storica del pangermanesimo? Lei che dice, Rusconi? Condivido grosso modo il giudizio di Reitani e i suoi argomenti, però c'è un ma. Come mai un partito tutto sommato che ha raggiunto una modesta quota a questo effetto psicologico forte? Perché sta tirando fuori un concetto chiave nella coscienza tedesca, il concetto semplice ma radicale di Volk. Non a caso la frase di ieri che ha detto il commento che ha detto Gauland, abbiamo ripreso il nostro popolo, e un'ora dopo ha risposto la Merkel che dobbiamo recuperare il popolo che ci ha lasciato. No, non sottovalutate, ma il concetto di Volk e di Völkisch è profondo. E quindi non so, credo che Reitani possa essere d'accordo, è come se andasse a qualcosa prima e diverso, più profondo, che non il pangermanismo che conosciamo, e tanto meno il neonazismo, anzi dovremmo smetterlo di usare questa espressione. Quindi c'è qualcosa di profondo, ma anche di nuovo, perché l'altro concetto che secondo me ha avuto effetto è quello, lo dico in tedesco che è più, basta con la Schuldkultur, basta con la cultura della colpa. Tutte cose che tengono conto in un certo senso di quello che è stato, ma che voglio girare pagina tirando fuori però un concetto profondo che è quello di nazione e di popolo. Quindi prevedo tra l'altro che una reazione anche da parte della Merkel, che non è una grande retore, insisterà sempre di più su questo concetto antico, si vuole, però declinato in maniera molto, molto particolare, perché altrimenti non si spiega questa grande paura che tutto sommato viene per un piccolo partito. Ho qui i numeri. Dunque, 246 seggi alla CDU, 153 alla SPD, 80 alla FDP, e poi c'è la Linke, eccetera, eccetera, e hanno paura di 94. È incredibile, no? Eppure ha avuto un effetto per cui stiamo parlando da 24 ore di questa cosa. Perché? Perché ha dietro probabilmente questa ondata, no? Così, e poi c'è il discorso che stava facendo Reitani dell'Est, che in qualche modo si sta risvegliando e rivendicando. L'idea che il problema fosse risolto non lo è. Ci sono motivi pratici, eccetera, ma non sottovaluterei l'elemento emotivo, simbolico o, con una parola, ahimè, abusatissima, ma fondamentale, che è l'identitario. Ecco, e questo è un po' il paradosso della alternative für Deutschland. Dopodiché, se posso andare avanti, sì, oppure, sì, dica. No, è un altro effetto apparentemente sproporzionato è la destabilizzazione del sistema politico, cioè la Germania non è più la nazione di riferimento per equilibrio interno, per stabilità interna. La Merkel, che ha sempre detestato la parola egemonia, adesso non usa più neppure quell'altra nazione di riferimento, oppure, detto in termini un po' grossolani, l'egemonia di cui tanto abbiamo parlato a torto, a ragione, nei mesi, negli anni scorsi, non c'è più. Improvvisamente, nel giro di 24 ore, la Germania non è più quella che era ieri. Ma pensate bene, è bastato così poco. Vuol dire che era un mito infondato, però, perché il mito mediatico in Italia dell'egemonia tedesca è una specie di grande costruzione autoassolutoria delle classi dirigenti italiane, perché i problemi italiani vengono da prima dell'euro. Non solo italiani, sono d'accordo con lei, no, però. No, c'era una, cioè, mancava un po' la parola, consentitemi che citi, non a caso, l'anno fa ho scritto un libro, certo, chiamando egemonia vulnerabile. Esattamente, ecco, esattamente. Che è venuto fuori. Improvvisamente è bastata una cosa certamente importante per dire qui c'è qualcosa che non va. Però a questo punto passiamo un passo in avanti. Sì. Questa Europa ha bisogno comunque di una cosa che si chiama egemonia, perché l'Unione Europea non riesce a produrre un governo collettivo. E vedo proprio oggi che la controparte ideale, che è la Francia di Macron, è in difficoltà. Allora abbiamo in questo momento le due nazioni bene o male più importanti del continente, perché la Brexit c'è stata, no? La Germania se n'è andata, il confine orientale con la Russia di Putin sta diventando pericoloso. Ha detto qualche settimana fa una cosa terrificante, che l'89-90 è stata una catastrofe geopolitica per l'Europa. Se noi pensiamo che noi per noi l'89-90 era il culmine della democrazia, sì, il culmine dell'Occidente, eccetera, vedete a che punto siamo rimasti. Allora tutto questo effettivamente, do anche ragione, era l'egemonia, ma dietro aveva questa debolezza che improvvisamente è venuta fuori in queste ore. Dopodiché sappiamo che la Merkel è una grandissima governante, saprà probabilmente rabberciare le cose, non lo so, ha incominciato a parlare con la sua, col suo distacco. Sì, vedremo, lei... vedremo, sì. Però insomma il problema, quando diceva Rusconi la debolezza, l'elemento nuovo di debolezza di Macron è rappresentato dal fatto che in Senato ovviamente non ha la maggioranza che ha la Camera Alta, anche lì è un bicameralismo perfetto, quindi questo attutirà molto la sua certezza di portare a compimento parecchie riforme. Di sicuro al tavolo europeo le cose non stanno come scioccamente è stato predetto prima. Questa è la mia stessa impressione. I media ipersemplificano e ripetono sempre le stesse canzoni e a ogni elezione scopriamo che erano sbagliate. Resta il punto poi di capire come anche reagirà l'Italia da questo punto di vista, ma questo poi lo vedremo a casa nostra. Intanto allora grazie anche a Gennarico Rusconi, adesso andiamo alla borsa, torniamo tra qualche minuto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a parlare della Germania. Rapide risposte, alcuni di voi con gli sms. No, non penso affatto che la storia si muova in linea retta, si figuri. Chi mi fa questa obiezione, no, non ci si muove, ma io poi sono un liberale imperfettista, non credo affatto all'Aufklärung che procede, come diceva Kant, liberandoci progressivamente in linea retta dal tenebre in cui stavamo prima, assolutamente no. Infatti la storia procede per scarti, le scelte degli uomini sono imprevedibili, ci mancherebbe altro. Punto numero due, alcuni dicono, però chi se ne frega della Germania, chi se ne frega della Germania, mi posso capire, ma fino a un certo punto, visto che siete gli stessi che ogni volta dite la Germania, leader egemone, ci mette sotto i tacchi. E come vedete, invece, sorpresa. E invece, riflettete un secondo a quelli che vi hanno raccontato per tanto tempo che la Germania dimostrava la virtù delle grandi coalizioni, e io ridevo, e infatti, come si vede, non è così. Riflettete su quelli che dicevano il proporzionale è la dimostrazione che la Germania col proporzionale non è affatto vero che esistono problemi di governabilità. Non è affatto vero, come si vede, perché Macron, col cavolo che ha i voti della Merkel, ha un terzo dei voti in meno della Merkel, Macron, preso dai tedeschi, eppure lui è in grado di governare con una grande energia, perché ha vinto con un mandato popolare diretto, e c'è un governo in cui il presidente sulla politica estera, non solo, visto che ha formato un governo che è sua emanazione, è diventata la fonte dell'esecutivo in tutti i campi. Ecco, vedete come le leggi elettorali maggioritarie e come se servono. Voi potreste dirmi preferiamo il proporzionale e non la governabilità, io penso invece il contrario in un paese avanzato. Però detto tutto questo, sentiamo qualche telefonata. Cominciamo con Clara che ci chiama da Pordenone. Clara. Sì, buonasera. Io volevo dire che sono rimasta colpita anche negativamente dal fatto che Schulz non abbia accettato di entrare di nuovo in coalizione con la Merkel. Perché? Sono rimasta perché Schulz comunque come politico è sempre stato un politico di lungo corso europeo, sì, cioè è stato sì, per tantissimo tempo nel Parlamento dell'Unione Europea, quindi di fronte a una minaccia come quella dell'AfD mi aspettavo che, vista anche il suo curriculum, si sarebbe alleato con la Merkel per fare il fronte comune. E anche, anche pensando al fatto che l'alleanza obbligata con i liberali dell'FDP, l'FDP sull'Europa la pensano in maniera radicalmente diversa dall'SPD e da Schulz. Quindi, però sa com'è. Probabilmente ci sono delle ragioni politiche. Ma è il minimo storico, in quel partito, visto il minimo storico, dicono dobbiamo andare all'opposizione. Io vi ricordo solo che quando... prima del 2013 la coalizione era tra CDU, CSU e FDP liberali, i socialdemocratici fuori non hanno guadagnato molto, però questo lo vedremo, non possiamo sostituirci ovviamente al giudizio del Partito Socialdemocratico, era un po' matura, secondo me molto conta anche la delusione verso il fatto che Schulz era partito benissimo, poi ha perso un mucchio nei confronti della Merkel in campagna elettorale. Si è capito che Sigmar Gabriel, in parole povere, sia pur essendo più direttamente coinvolto perché vice presidente e ministro degli esteri del governo con la Merkel, però sarebbe stato un leader più combattivo e più capace di evitare questo massacro elettorale che è stato per i socialdemocratici. Grazie Clara, sentiamo Mariangela che ci chiama dalla provincia di Treviso. Mariangela. Ecco, buonasera signor Giannino. Senti, io penso che la debacle di Schulz sia prevista, era stata prevista, sì, lo sapeva. Una delle poche cose che era previstissima. Sì, esattamente. Quanto poi, io avevo una domanda a latere, diciamo. La domanda è, 1,5 milioni di turchi hanno avuto, diciamo, disposizioni da Erdogan di non votare per la signora Merkel. Volevo sapere se sia concione di quanto abbiano. Allora, io da stamattina, siccome questa è una delle domande che ci siamo già fatti prima delle elezioni, non sono ancora riuscito a trovare dei sondaggi attendibili, delle ricerche di approfondimenti sui flussi elettorali della comunità A, turca in particolare, e musulmana in generale nel voto. Sicuramente li troviamo nelle prossime ore sui giornali tedeschi, perché questo è uno dei punti di fondo e quindi torneremo a dirvelo. Attualmente io le posso solo dire che non sono riuscito a trovare indicazioni in questo senso. Come correttamente dice lei, l'invito di Erdogan era: non votate né CDU-CSU né SPD né Verdi. Paradossalmente alcuni dicevano: cosa devono votare? Alternative for Deutsche? No, diceva praticamente: non date una mano all'area di governo che attacca duramente la politica di Erdogan. Vedremo, attualmente non lo sappiamo ancora. Mariangela, allora, ci ha raggiunto nel frattempo Flavia Perin, giornalista, ex direttore del Secolo d'Italia, e io chiedo anche a lei, stante il fatto che mi interessa sapere cosa pensa del fatto che abbiamo giustiziato sia la tesi delle grandi coalizioni come cosa positiva, a mia opinione si giustizia anche l'idea che è meglio il proporzionale del maggioritario alla francese, però la stessa domanda che ho fatto a Rusconi e Reitani la faccio anche a lei. Sicuri, come ci ha detto Reitani, Rusconi era più dubbioso sul fatto che insomma, un bel po' di tedeschi rifacciano una scelta in cui si parla di folk, di comunità, di terra e di sangue. Lei che dice, Perin? Ma io dico che in qualsiasi paese europeo il mercato dell'opposizione radicale al sistema, alle maggioranze, ai governi, è un mercato che vale il 10-15% e che i singoli paesi si esprime in modalità molto differenti. In Italia quel mercato è stato occupato dalla Lega e il 5 Stelle ed è un po' più largo. Altro che. Del 15-20%, in Francia è stato occupato, era più largo, dalla Le Pen, in Germania è un mercato che vale il 12,6%, è occupato dagli imprenditori della paura, perché questo partito si qualifica fondamentalmente sui temi della paura dell'immigrazione e delle barriere all'immigrazione, e quindi era abbastanza scontato che, così come succede ovunque, esistesse una minoranza parlamentare che esprime un'opposizione radicale e di sistema. Succede dappertutto. Probabilmente è stato avvantaggiato, la SPD è stata avvantaggiata dall'inesistenza in Germania di altre forme di opposizione radicale. Tutti gli altri partiti, cioè i liberali, i verdi, i socialdemocratici e persino salvo la Linke, hanno governato a fasi alterne insieme con la Merkel. Sono comunque partiti di governo, anche se si sono non trovati c'è dubbio. Però la novità in Germania è che questo, tra virgolette, mercato dell'opposizione, questa offerta di radicale opposizione, insomma, nella storia della Repubblica Federale, una presenza di questo tipo alla destra della CDU-CSU col passato tedesco. In realtà la leader di questo partito SD è un personaggio piuttosto controverso rispetto ai messaggi, anche contraddittorio rispetto ai messaggi la Weidel. Il partito manda. Sì, perché è una lesbica dichiarata, convive con una straniera, con una sri-lankese, ha la residenza in Svizzera, viene dal management di grandi banche, compreso la Bank of Sina. Of China, ha due figli stranieri adottati, quindi diciamo è tutto vero, però lei sa strano. Che la tesi è che sia stata un po', tra virgolette, arruolata sposando le sue ambizioni come specchietto della Lodra, che il vero leader è Alexander Gauland, l'ex democristiano di destra, che ha passato gli ultimi mesi a dire che la Germania deve piantarla di vergognarsi della Wehrmacht nella seconda guerra mondiale, testuali parole. Sentimenti, cioè il sentimento del nazionalismo, del terrore, dello straniero e del cambiamento, può cavalcarli chiunque, può cavalcarli uno con un passato di destra, una senza un passato. Con un passato da manager economico, posso cavalcarli io o lei se ci mettiamo in testa di fare gli imprenditori politici della paura. Le analisi dei flussi elettorali ci raccontano molto bene questo fenomeno. Questo partito, diciamo, di ultradestra tra i giovani elettori tedeschi raccoglie meno del 5%, esatto, cioè esatto. I giovani tedeschi non gli avrebbero neanche fatto la soglia. Scavalcare la soglia di sbarramento. Dove raccoglie percentuali impressionanti, il 22,9%, è nella Germania Est, quindi diciamo in un mondo che tra l'altro dovrebbe avere dei filtri critici particolari più forti della Germania Ovest, probabilmente su tutto quello che e è. E poi non è un caso che vada oltre il 20% anche nelle parti della Baviera, limite del confine con l'Austria, cioè dove c'è stato la grande paura del passaggio di immigrati prima che poi il corridoio dell'est balcanico e fino all'Austria si fermasse. Quindi è evidente che c'è una rappresentazione diretta di quello che si sta dicendo Flavia Perina. Torniamo tra un minuto con Flavia Perina, perché intanto abbiamo le strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta qui, Voto Tedesco, è con noi Flavia Perina. Io l'ho interrotta perché c'era l'informazione sulle strade, perché la domanda era sì, però insomma il fatto che faccio direttamente appello al Volk, insomma parola che nella filosofia e nella politica tedesca hanno pesato tanto, e Flavia Perina ci stava dicendo beh sì, però sono imprenditore della paura, è un'area elettorale più ristretta di quella di altri grandi paesi europei, tutti possono provare a cavalcare la paura al di là della loro storia politica. E quindi non preoccupiamoci troppo, Flavia? Non è che non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo soprattutto, ci sono larghe aree della popolazione, il 22% nell'ex Germania Est significa insomma quasi un quarto della popolazione, evidentemente estremamente preoccupati, che non hanno gli strumenti per capire quello che sta succedendo, per capire il mondo nuovo, e hanno paura di questo futuro indistinto, quindi di questo penso che le classi dirigenti debbano preoccuparsi per dovere d'ufficio, cioè è importante ascoltare i cittadini che palesemente si trovano in una situazione di largo disagio. Quello che è totalmente in controtendenza, secondo me, in Germania rispetto al resto d'Europa o comunque a paesi come il nostro, è che da noi questo disagio, che è più collegato ai temi del lavoro, dello sviluppo, dei salari bassissimi, è espresso dal mondo dei giovani, mentre in Germania è espresso da un mondo anziano che evidentemente si trova a disagio in questa situazione, mentre i giovani tedeschi con una disoccupazione al 5%, sotto il 5%, evidentemente non hanno una gran ragione di protestare. Volevo aggiungere anche una cosa sul ruolo dei turchi, del quale avete parlato prima. Al referendum costituzionale indetto da Erdogan, la metà dei turchi tedeschi, anzi oltre la metà dei turchi tedeschi, non sono proprio andati a votare. Esattamente. Quindi diciamo, io non credo che le indicazioni di Erdogan, magari sì, su qualche minoranza potranno aver avuto un effetto, ma diciamo, nello stagione referendaria, quando c'è stata proprio la chiamata alle armi di Erdogan, oltre metà dei turchi non sono neanche andati alle urne e potevano farlo. E il referendum, tra quelli che ci sono andati, credo a memoria di dire che sia passato il sì col 60%, sì, una quota non proprio schiacciata, esatto, ma molto minoritaria rispetto diciamo alle aspettative. Quindi l'idea di un voto su base etnica, secondo me, è un po' sbagliato. Andrei più a guardare appunto le questioni anagrafiche. Senta, Perina, un'altra cosa è che la scontata, per così dire, secondo molti delle analisi precedenti al voto, cooperazione rose e fiori oramai tra Macron e la Merkel, confermata la cancelleria per determinare i criteri, le regole della nuova Europa, del cerchio più ristretto a cooperazioni rafforzate, beh anche quella probabilmente cambia, perché i liberali, con cui la Merkel è obbligata a tentare di raggiungere un'intesa di governo, hanno idee molto diverse da quelle dei socialdemocratici sull'Europa. Che conseguenze vede per un'Italia in cui dalla destra alla sinistra tutti cantano la stessa canzone, cioè che ci dobbiamo avere più deficit, più flessibilità e che la Germania deve capire che deve mutualizzare il nostro debito pubblico? Questa è una canzone da campagna elettorale, quindi poi le canzoni di campagna elettorale di solito sono un po' differenti da quelle del giorno dopo, quando si deve cominciare a fare le persone serie. E io penso che una leader come Angela Merkel, che è praticamente l'unica leader europea che riesce a farsi rinnovare un mandato per la quarta volta consecutiva, praticamente è al governo, non so, da epoche immemorabili, da quando i miei figli non erano ancora nati, ecco, diciamo abbia comunque in mano tutte le atù per essere determinante e per non essere in qualche modo messa all'angolo da piccoli partiti o da o da partiti di coalizione, resta lei l'arbitro delle questioni tedesche e forse dovrà un po' più preoccuparsi di questo tema delle migrazioni, dovrà prestare più attenzione alla situazione di alcune aree del suo paese. Io non credo che, al di là di questo giornale di dibattito sull'immediato esito delle elezioni, questo grande allarme sul risultato dell'FD, è indebolita, perché un leader che ce la fa per la quarta volta non si può dire. Ah no, beh, perdere sempre così sarebbe l'ideale. Ho capito, in tutta Europa le elite europee sono state spacciate via, noi abbiamo visto filiere politiche scomparire da un giorno all'altro, Hollande è scomparso dalla Francia nell'arco di 5 minuti, e la sconfitta bruciante di Marine Le Pen, che sembrava la nascente di questa nuova Europa, e questa sta al posto suo, insomma, da 25-30 anni, non so io neanche più quanto, e francamente... francamente penso che può continuare a cantarsela, a suonarsela più o meno come le pare. Ma questa cosa ha un qualche peso secondo lei, visto che il principale alleato in Italia della Merkel sarebbe Berlusconi? Ma non è che si capisce bene chi è il principale alleato in Italia della Merkel, perché in Italia è un paese strano, fino a 6 mesi fa la Merkel era proprio il nemico principale. Esatto. Cioè, era tipo diavolo, Voldemort, cioè un vampiro, una cosa brutta, e non c'era partito o formazione politica che non rispondesse colpa della Merkel. Esattamente, c'era domanda. Un'esecrazione corale, unanime. Mi hanno fatto la multa alla macchina, colpa della Merkel. Esattamente. Ecco. Quindi questa fino alle elezioni francesi la canzone è stata questa, poi alle elezioni francesi è successo quel che è successo, si è visto che questa linea di contestazione all'Unione Europea, al portato della Comunità Europea, eccetera, non faceva vincere, non pagava, Marine Le Pen ha perso, e quindi improvvisamente c'è stata una sorta di conversione di massa, e tutti adesso vogliono farsi fotografare con la Merkel e possibilmente baciare la Merkel e uscire. Vabbè, io la metto così, viva la provincia italiana. Io non so neanche se è il principale alleato. Esatto. Io sono d'accordo con lei. Sono d'accordo integralmente con lei. Qui si parla del provincialismo italiano e delle sue classi dirigenti. Ma questa è la mia personalissima opinione, non la voglio coinvolgere. Grazie anche a Fabio Perina, a voi tutti per l'ascolto. Appuntamento all'8:15 con me e Luca Telese domani a 24 mattina e alle 16 domani pomeriggio.